Uno dei miei autori preferiti, lo scrittore C.S. Lewis, nella prefazione del suo libro Il problema della sofferenza, scrisse: quando si deve sopportare un dolore, serve più un po' di coraggio che una grande conoscenza, serve più un po' di simpatia umana che un grande coraggio, e più di ogni altra cosa, serve anche solo il più vago barlume dell'amore di Dio. È vero. È facile parlare accademicamente della sofferenza, ma quando ci si trova coinvolti in essa, l'interesse nei confronti della conoscenza sembra avere uno spazio minimo. Ma anche se la conoscenza occupa un minimo spazio nel nostro interesse, è saggio non rifiutarla. Anzi, la conoscenza unita al coraggio e alla fede nell'amore di Dio può essere di grande aiuto. Proprio per questo ho trovato nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, un episodio drammaticamente reale e doloroso che mette in evidenza alcuni atteggiamenti che hanno alcune persone di fronte alla sofferenza e che mette a nudo in che modo tutti noi affrontiamo le difficoltà della vita. L'episodio è la morte di Lazzaro. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Giovanni ha scritto questo episodio per dimostrare principalmente che Gesù è la resurrezione e la vita. Il racconto inizia con il considerare che era malato un certo Lazzaro. Non era malato una persona famosa, nota, ma uno sconosciuto che per essere identificato veniva segnalato come fratello di Marta e Maria, cioè quella che unse i piedi di Gesù con dell'olio profumato e li asciugò con i capelli. Forse tu ti immedesimi in Lazzaro, forse non ti senti né apprezzato né amato, forse non ti senti neppure degno di esistere perché la tua infanzia ha lasciato una cicatrice nei tuoi sentimenti, un'esperienza dolorosa ti ha reso scettico verso ogni manifestazione d'amore. Ebbene, Dio non si dimentica e non si è dimenticato di te. È difficile credere a questa semplice verità, perché pensare di non essere dimenticati da un Dio di amore, quando tutto va a rovescio dal nostro punto di vista, non è affatto facile. Sembra che alcuni eventi sfuggano al controllo di Dio. Ma la fede nel Dio creatore non può essere dimezzata. O crediamo totalmente che Egli sia sovrano, e in questa sovranità è amore, o non ci crediamo affatto. La fede o l'incredulità non ammettono mezze misure. Se io non mi servo di una banconota da 100 euro perché la credo falsa, non posseggo solo 10 o 20 euro, ma non posseggo nulla. Lazzaro era ammalato. Le sorelle intercedono a favore del fratello malato. Anzi, mandano un'ambasciata a Gesù: colui che tu ami è malato. Notiamo la finezza del discorso. E, come dire, Signore, se lo ami, come mai è ammalato? Non è forse questo il modo nostro di ragionare? Non è vero, come alcuni insegnano, che la malattia è una ragione di mancanza dell'amore di Dio? O almeno non siamo del tutto convinti che Dio ci ama quando passiamo per certe prove. Oggi si predica molto il Vangelo del progresso, cioè un Vangelo teso a far star bene le persone, dove si predica credi in Cristo e non avrai problemi, mentre Gesù insegnò che chi vuole vivere piamente sarà perseguitato. Anche i credenti intercedono per i malati. Le preghiere che i figli di Dio fanno per i malati sono molto numerose, sono più numerose di quelle per le cose che riguardano Dio e il suo regno. Dobbiamo ammetterlo. Quando Gesù insegnò i suoi discepoli a pregare nella preghiera modello chiamata Padre nostro, notiamo che le richieste personali sopraggiungono dopo aver chiesto tre cose che riguardavano Dio. Gesù disse di pregare il Signore che spinga degli operai nella sua messe. Preghiamo noi per questo prima ancora dei nostri bisogni. Il racconto della morte di Lazzaro continua. Or Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli: «Torniamo di nuovo in Giudea. Dunque, di fronte alla morte di Lazzaro, Gesù non reagisce subito. Strano modo di comportarsi. Quando le situazioni non vanno bene, noi abbiamo fretta, ma i tempi di Dio non sono i nostri. Spesso crediamo che Dio non intervenga. Pensiamo che Egli non oda il nostro grido. Un tale atteggiamento è comune fra i credenti. Quando leggiamo le preghiere dei santi prima della venuta di Gesù, notiamo una continua lamentela da parte loro per la mancanza di intervento di Dio. La loro attesa era un'attesa snervante, non capivano il valore dell'intervallo tra la richiesta e la liberazione, ma alla luce del messaggio del Vangelo comprendiamo come a Dio importi più che i suoi figli imparino o esercitino le virtù cristiane che la stessa liberazione. E per questo che possiamo leggere nelle lettere a Giacomo 1.23 queste parole alquanto strane. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. E dato che Giacomo non era né un masochista né un sadico, aggiunse sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ecco allora che la sofferenza trova la sua ragion d'essere. Dopo alcuni giorni Gesù parte per visitare le sorelle di Lazzaro. Così leggiamo nel Vangelo. Or, Betania distava da Gerusalemme circa 2 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta, dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Le due sorelle, come vedono Gesù senza mettersi d'accordo, gli fanno un discorso unanime che ha tutto il sapore di una paternale: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». In verità le sorelle stavano riconoscendo in Gesù l'uomo che non avrebbe permesso la malattia e il decesso, ma avevano dimenticato che comunque un giorno Lazzaro sarebbe morto. Gesù non era andato a trovare Lazzaro quando era malato perché aveva qualcosa di meglio da rivelare a loro e a tutti, e cioè che egli è la resurrezione e la vita. Quante volte noi pensiamo che sarebbe meglio che certi eventi dolorosi della nostra vita non succedessero? Quante volte avremmo voluto un intervento di Dio perché ci risparmiasse certe sofferenze? Dov'era Gesù quando è morto Lazzaro? Dov'era Dio l'11 settembre 2001? Dov'era Dio quando mio padre è morto a 28 anni ed io sono rimasto orfano a 13 mesi? Dov'è Dio quando permette ancora oggi che migliaia di cristiani vengano perseguitati e assassinati? Perché non ho un marito migliore o una moglie più saggia? Non siamo i soli a porci queste domande antiche quanto l'uomo, e la parola di Dio risponde nel libro di Giobbe. Si grida per il gran numero delle oppressioni, si grida in cerca di aiuto a motivo della forza dei potenti, ma nessuno dice: «Dove è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia, che a noi insegna più cose che alle bestie dei campi e ci fa più saggi degli uccelli del cielo?» Così si grida, ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Certamente Dio non darà ascolto a discorsi vuoti, e l'Onnipotente non vi farà attenzione. Anche se tu dici di non vederlo, la tua causa sta davanti a lui, e tu devi aspettarlo. Giobbe 35.8.14 è vero. Siamo pronti a lamentarci quando le cose non vanno bene, ma siamo altresì pronti a cercare Dio, ringraziarlo e ricordare che se anche non lo vediamo, la nostra causa gli sta davanti e siamo preziosi ai suoi occhi. Nell'episodio di Lazzaro, Gesù pianse. Molto è stato detto in merito, tra le tante cose anche che Gesù pianse per la morte di Lazzaro. Ma Gesù sapeva che avrebbe risorto Lazzaro, perciò mi sembra una interpretazione fuori luogo. Molto probabilmente Gesù pianse per l'incredulità dei presenti. per la situazione di dolore nella quale è immersa l'umanità. Però, se pensiamo che Gesù è Dio, allora siamo di fronte al più grande avvenimento che l'uomo possa conoscere, e cioè il Dio inaccessibile, cioè colui che si è rivelato sul Monte Sinai, partecipa alle sofferenze umane. Non è vero, come alcuni insegnato, che Dio sia insensibile delle sofferenze degli uomini e lui rimanga beato su nel cielo. L'Eterno disse al popolo di Israele tramite il profeta Geremia: «Ma se non ascoltate questo, l'anima mia piangerà in segreto a motivo del vostro orgoglio, e i miei occhi piangeranno dirottamente e si scioglieranno in lacrime». Geremia 13.17. E giunto il momento di smettere di pensare che questo parlare dell'Eterno sia antropomorfico, cioè espressioni o modi di dire di Dio prese in prestito dalle realtà umane e che non corrispondono esattamente alla realtà. Perché questo non è vero, l'Eterno piange veramente, Dio partecipa veramente alle sofferenze. E tutto questo lo fa in Cristo. Cristo ha pianto. Cristo ha sofferto. Cristo ha partecipato al dolore dell'umanità. E dato che Cristo è Dio, come sostengono i cristiani, allora non vi è nulla di più reale che Dio soffra e pianga in Cristo Gesù. Non conosco qualcosa di più grande del mistero dell'incarnazione. Condivido pienamente ciò che ha scritto James A. Means in Gioia nel dolore, Coraggio nella crisi. Dio conosce la nostra sofferenza e vi partecipa. È un mistero profondo ed impenetrabile, ma io non oso dimenticarlo. I nostri sentimenti di prostrazione lo toccano così profondamente che si unisce a noi nel nostro pianto di straziante dolore. Io penso che l'ultima lacrima asciugata sarà quella che Dio asciugherà dai suoi occhi. Fino a quel giorno il nostro Dio piangerà con noi. In questa prospettiva, ogni dolore non è altro che un gradino che ci porta più vicino al Dio Trino, che per un amore a noi incomprensibile ha creato una creatura simile a Lui pur sapendo di dover soffrire per essa. La sofferenza umana poi rimane certamente un mistero, ma il mistero dei misteri è la sofferenza di Cristo Gesù quale Dio incarnato. In definitiva, mediante la sofferenza imparo che il modo nel quale si manifesta la bontà di Dio non mi è sempre gradito, ma imparo altresì a conoscere Dio per quello che è e non per quello che vorrei che fosse. Marzo 2006. Consiglio vivamente Gioia nel dolore, coraggio nella crisi, Casa della Bibbia, James E. Means, Ellero,